Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:18, nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo del voucher lavoro, cercheremo di capire che cos'è questo strumento, come si usa, chi può utilizzarlo, sia dal punto di vista della domanda sia dal punto di vista dell'offerta, quali sono gli eventuali limiti e criticità di questo strumento. Uno strumento abbastanza giovane, datato 2008, che quindi ha ancora forse bisogno di un pochino di rodaggio, ma che gli ultimi dati ci dicono in costante crescita. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, e come ogni giorno abbiamo illustri ospiti con noi per rispondere a tutte le vostre domande, quesiti, dubbi, e anche ovviamente per cercare di raccontare al meglio questo argomento. Maria Luisa De Cia, presidente della Commissione Lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi. Alessandro Rota Porta, consulente del lavoro, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno, grazie. Prima però di addentrarci nel tema di oggi, come sempre andiamo a vedere velocemente che cosa sta succedendo sui mercati questa mattina, una mattinata piuttosto debole. Allora, veniamo da una chiusura contrastata per quanto riguarda l'America, anche se in realtà il Dow Jones ha chiuso piatto, mentre il Nasdaq ha chiuso con una flessione dello 0,78%, Tokyo chiusa per festività e lo sarà anche domani, l'Europa ha aperto molto debole con il segno negativo e poi riuscita a invertire la rotta, restando comunque sempre piuttosto debole. In questo momento la situazione è contrastata perché Parigi guadagna uno 0,08%, Francoforte invece cede uno 0,07%, Londra resta la più pesante con una flessione di circa 0,5%. A Milano il FTSE MIB guadagna uno 0,17%, il FTSE All Share guadagna lo 0,14%. I mercati restano in attesa di alcuni dati macro importanti. Domani si riunisce la Bank of England e anche la BCE per le decisioni sui tassi. Per quanto riguarda la BCE non è atteso alcun cambiamento, però nella conferenza stampa conclusiva come sempre verranno delle indicazioni da parte del presidente Trichet, e poi domani Ben Bernanke, il presidente della Fed, il governatore della Fed, terrà un discorso, mentre venerdì è atteso il dato sulla disoccupazione americana, che è sempre un indice di grande importanza. Per quel che riguarda il listino principale a Milano, il miglior titolo fin dalle prime battute, Fiat Industrial, guadagna il 3,22%, secondo Repubblica il Lingotto potrebbe vendere Fiat Industrial per accelerare l'operazione con Chrysler. Bene anche Exor, che guadagna l'1,18% dopo aver annunciato l'interesse a entrare, a impegnarsi nella Formula 1 insieme alla News Corp di Rupert Murdoch. Bene anche Fiat, in questo momento ha ridimensionato i guadagni, è in progresso dello 0,41%, ma è arrivata a guadagnare anche oltre un punto percentuale all'indomani del referendum vinto alla ex Bertone. In evidenza il Banco Popolare, che guadagna 1,5%, e in controtendenza rispetto a tutto il settore bancario, che oggi è piuttosto debole. Bene anche Snam Rete Gas, che guadagna l'1,19%, e Telecom Italia, che guadagna poco più di un punto percentuale. In fondo al listino troviamo l'Automatica, che cede quasi 2 punti, sicuramente influenzato dal taglio del giudizio da parte di Citigroup da hold a sell. Male anche Tozzo, che cede lo 0,93%, in pregiro lo 0,85%, Ansaldo lo 0,67%. Cala il prezzo del petrolio e questo influenza anche i titoli come Eni, che cede uno 0,28% in questo istante. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,48,62 sul dollaro, e con questo chiudiamo la nostra parentesi dedicata ai mercati, ci dedichiamo al nostro tema invece, che appunto ricordo è il voucher lavoro. Sentiamo la nostra scheda. Avanti tutta con i voucher lavoro. I buoni di pagamento emessi dall'INPS, utilizzati per la remunerazione di lavori accessori e occasionali, complice la crisi finanziaria, hanno raggiunto a marzo quota 15 milioni. Creati dalla riforma Biagi ed entrati in vigore nel 2008, hanno un valore nominale che può variare tra 10, 20 e 50 euro. Offrono un doppio vantaggio. Dal lato del lavoratore danno copertura sanitaria, assicurativa e contributiva, senza far perdere il diritto ad altre formule di sostegno al reddito. Dalla parte del datore di lavoro comportano un peso fiscale ridotto e possibilità di copertura INAIL in caso di infortuni senza bisogno di contratto. Eppure un campanello d'allarme c'è. Per certi versi questo tipo di strumento potrebbe infatti favorire, secondo alcuni, il lavoro nero. Per quanto riguarda il loro impiego a livello geografico, il Sud resta indietro, anche in un settore come quello agricolo, dove sarebbe più ovvio attendersi un decollo. Su oltre 15 milioni di buoni venduti fino al 31 marzo 2011, per un valore di 150 milioni di euro, il Veneto è infatti ampiamente in vantaggio su tutti, con 2 milioni e 334.000 voucher venduti, che rappresentano ben il 15,22% del totale. A seguire la Lombardia con 1,9 milioni di voucher, Emilia-Romagna con 1,7 milioni e infine Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Le 12 e 24 minuti, stiamo parlando di voucher lavoro e allora subito alla dottoressa De Cia chiedo di specificare in maniera chiara e possibilmente concisa che cosa possiamo intendere per lavoro occasionale di tipo accessorio. Il lavoro occasionale tipo accessorio mi sembra sia stato presentato molto bene da voi e per sintetizzare sono in buona sostanza dei buoni lavoro che vengono erogati a determinate categorie di persone o anche a tutte le persone che svolgono prestazioni meramente occasionali e accessorie. L'occasionalità è un elemento essenziale perché una diversa tipologia di rapporto deve essere ricondotta necessariamente a quello che è il rapporto strutturato, quindi può essere un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che parasubordinato o quant'altro. Il lavoro occasionale è proprio un'attività che viene svolta saltuariamente e la normativa in questione ha inteso in un certo senso organizzare, strutturare e dare una copertura assicurativa e previdenziale a questa forma di attività che comunque è molto diffuso. Si pensi per esempio ai lavori domestici occasionali come babysitter, piuttosto che la necessità di sostituire una domestica che è assente o per situazioni temporanee di emergenza. In questo caso ben venga il lavoro occasionale accessorio, lavori di giardinaggio, Le faccio subito l'esempio perché ci hanno scritto al 349-238-6666, ci scrive Massimo da Udine: può essere utilizzato dal condominio e pagato dall'amministratore, ad esempio per il giardiniere che in questo momento è in pensione, quindi magari non deve essere per forza chiamato tutte le settimane, ma magari una volta al mese? I due requisiti coincidono, quello soggettivo e quello oggettivo, nel senso che i lavori di giardinaggio rappresentano fanno parte dell'elenco delle attività che possono essere effettuate nell'ambito del lavoro accessorio. Da un punto di vista soggettivo, invece, il pensionato rientra tra le persone che effettivamente possono svolgere senza particolari limiti le prestazioni occasionali e accessorie. Va sottolineato però che deve trattarsi di una prestazione occasionale, quindi il giardiniere che mi viene tutte le mattine ad annaffiare le piante nel giardino condominiale dovrà avere un tipo di inquadramento sicuramente diverso perché si tratta di un'attività continuativa e costante. Il giardiniere che viene a fare la potatura delle piante piuttosto che tagliare l'erba una volta al mese, se questo è sufficiente, può essere remunerato tranquillamente con i buoni lavoro. Certo. Quindi va sempre fatta una valutazione attenta sulla tipologia del rapporto. Quindi entrambi i requisiti, sia l'oggettivo che il soggettivo. Esatto. Dottor Rotaporta, per quanto riguarda chi vuole utilizzare questi voucher, quindi diciamo il datore di lavoro, quali sono, diciamo, le facilitazioni che questo strumento dà? Sì, allora, come ha anticipato già la dottoressa De Cia, effettivamente il buono lavoro consente una semplificazione, tenendo sempre ben presente che non si configura come un rapporto di lavoro, quindi è al di fuori, si colloca, diciamo, in un ambito che è esterno al rapporto di lavoro, e quindi decadono tutti gli obblighi che deriverebbero da un contratto di quella tipologia lì, mentre invece con il voucher sostanzialmente ci sono tre tipologie, diciamo, per poter acquistare questi buoni, poi da spendere nelle determinate categorie di attività o di prestatori a cui si può fare ricorso con questa formula, e sono tre tipologie che sono la richiesta all'attivazione cartacea attraverso canale cartaceo, l'attivazione con canale telematico e da ultimo una procedura che è stata introdotta di recente attraverso la rete dei tabaccai convenzionati. Sostanzialmente quello che accomuna e che è, diciamo, forse l'aspetto più importante a livello, possiamo dire, burocratico, che accomuna tutte queste tre modalità di acquisto dei voucher è la denuncia che il committente deve fare preventivamente attraverso i canali dedicati, quindi canale sede IMSS, contact center, che sarebbe il numero verde IMSS, o telematicamente la comunicazione preventiva dell'inizio della prestazione, quindi andando a indicare il periodo di lavoro presunto di utilizzo dei voucher, il prestatore interessato, e questa è fondamentale perché consente di dare a questa formula, che possiamo chiamare agevolata dei voucher, comunque la certezza della sua regolarità e fa evitare la cosiddetta maxi sanzione sul lavoro nero, altrimenti anche questa formula qui andrebbe a finire a cadere nel lavoro nero. Quindi è importante che comunque il voucher snellisce da tutta una serie di adempimenti, quindi non bisogna fare l'assunzione, non bisogna fare il contratto di lavoro, non bisogna fare altri adempimenti, però comunque questo adempimento è un adempimento minimo, insieme agli altri passaggi per ottenere proprio fisicamente il buono, sia cartaceo che virtuale tramite il canale telematico. Questa è molto importante perché evita tutta una serie di problemi. Allora, torneremo poi a parlare anche delle sanzioni, perché comunque è un aspetto importante. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, il meteo, ma ci ritroviamo tra pochissimo. Sono le 12.35, stiamo parlando del voucher lavoro, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. E allora saluto subito la signora Renza dalla provincia di Novara, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Ci dica. Dunque, ascolti, io ho una signora che viene 3 ore alla settimana dopo l'orario che fa presso una ditta artigianale. Allora, io mi chiedo se posso con lei usare il sistema del voucher. Allora, signora Renza, io penso, da quanto abbiamo detto fino a questo momento, che questo non sia possibile, però chiedo ovviamente l'aiuto della dottoressa De Cia per dirimere tutti i dubbi della signora Renza. Ma io direi che, trattandosi di lavoro domestico continuativo, il rapporto di lavoro è diverso da un lavoro occasionale, quindi a mio avviso andrebbe previsto una diversa forma di gestione di questo rapporto, quindi per me potrebbe essere un rapporto di lavoro domestico a tutti gli effetti. Diverso il discorso se questa prestazione avvenisse occasionalmente, o per ipotesi una volta al mese, perché comunque la durata del lavoro, cioè il lavoro accessorio ha anche dei limiti, sia temporali che di importo, quindi l'importo massimo che può essere erogato a un prestatore di lavoro occasionale non può superare i 5.000 euro di reddito netto, cioè l'importo netto del voucher, perché l'importo lordo del voucher di 10 euro, 20 euro o 30 euro, o 50 euro corrisponde a un controvalore netto, al netto cioè dell'incidenza IMSS e quant'altro. Quindi innanzitutto va verificato che non si superi i 5.000 euro lordi. L'anno? Annui, che sono ridotti a 3.000 euro lordi per i percettori di misure a sostegno del reddito, quindi anche casse integrate e quant'altro possono avvalersi del di questo strumento. Esatto, ed è molto importante anche questo. E la durata dovrebbe essere quella di 30 giorni. Sempre l'anno. Quindi una prestazione lavorativa un giorno alla settimana eccede questo ore, limite. Comunque certo. C'è il limite dei 30 giorni. A questo proposito, dottoressa De Cia, le giro anche un SMS che ci chiede qual è il limite di ore settimanali sotto il quale un lavoro si considera occasionale, cioè se c'è un limite di ore settimanali o se invece dobbiamo considerare i 30 giorni. L'anno 30 e giorni, basta. 30 giorni l'anno, a prescindere dalla durata, può essere un'ora, una giornata di un'ora, può essere una giornata di 8 ore, ma non c'è un limite orario. Esiste un limite giornaliero annuo. Saluto il signor Ivo dalla provincia di Cuneo, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti, la mia domanda era più o meno legata a questa eventualità, perché le spiego, noi abbiamo una piccola azienda agricola. Durante il periodo di fine luglio, fine agosto, abbiamo un peschetto. Quindi avete bisogno di aiuto? Questo mese c'è il bisogno, diciamo, quelle 5-10 giornate di una persona in più a darci una mano. Possiamo pagarla coi voucher anche se la prendiamo per tutta la settimana o vale soltanto se la prendo 2 giorni alla settimana? Allora, dottor Rotaporta, immagino che anche in questo caso la risposta sia già nelle parole dette precedentemente, però è sempre utile, come dire, ribadire il concetto. Sì, a parte che con riferimento al settore agricolo il concetto può essere leggermente mutato, perché diciamo che i voucher, come prima introduzione, hanno proprio visto il loro utilizzo nelle attività vendemmiali. E effettivamente, trattandosi di attività di carattere, cioè comunque anche con riferimento a quel periodo, adesso qui l'esempio era la raccolta delle pesche, però sì, con riferimento a quel periodo effettivamente, proprio perché l'attività agricola è soggetta agli eventi atmosferici, quindi non è un'attività che si può predeterminare a priori e quindi avviene a carattere discontinuo e a carattere saltuario, l'utilizzo del buono può avvenire nel momento in cui appunto non si configuri un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio, quindi con degli impegni fissi, con degli orari anche se pur limitati nel tempo ma predeterminati a priori, quindi potrebbe avvenire. L'unica avvertenza per il discorso delle attività agricole è che si distinguono due casi, quindi l'attività agricola con volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro, allora può utilizzare i voucher con riferimento a qualsiasi categoria di prestatore. Diversamente invece se l'azienda agricola sfora quel limite di volume d'affari, allora può utilizzare i buoni lavoro soltanto con determinate categorie di soggetti, che sono i giovani con meno di 25 anni, i pensionati, le casalinghe e per il 2011 ancora i soggetti che percepiscono un sussidio di sostegno al reddito, quindi casse integrate, disoccupati e quant'altro, e i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro part time, ovviamente con un'altra azienda che non sia lo stesso committente. Certo. Ne approfitto, dottor Rotaporta, per girarle anche un SMS. Ci scrive un lavoratore dipendente che a volte usa i voucher per altri lavori e chiede: i contributi previdenziali dei voucher si sommano a quelli da dipendente? No, perché sono la contribuzione inclusa nel valore lordo del voucher va... viene accreditata alla gestione separata, che è sempre un serbatoio pensionistico dell'INPS, però non è il fondo pensione lavoratori dipendenti a cui è destinata, diciamo, la contribuzione legata al suo rapporto di lavoro subordinato, ma è una gestione a parte. L'unica diciamo deroga a questo principio è nel caso di utilizzo dei voucher in capo all'impresa familiare. Allora in quel caso lì anche la contribuzione del voucher va a finire diciamo, nello stesso calderone che sarebbe il fondo pensione lavoratore dipendente, se no nella maggioranza dei casi va a finire la gestione separata e quindi poi lì eventualmente sì, può fruttare a livello pensionistico, ma devono poi ricorrere dei particolari requisiti per poterla poi sommare a quella del fondo pensione lavoratori dipendenti. Peppino da Bari, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie per l'ospitalità e complimenti per la trasmissione. Ci dica. Sì, sì. Abbiamo come condominio di dipendenza un portiere che ha funzione di cittadinanza. Signor Peppino, la sentiamo malissimo. Allora, io cerco, da quanto mi è stato scritto, di interpretare la sua domanda. Voi avete un portiere nel vostro condominio che però non è in grado di fare alcuni piccoli lavori di sostituzione delle parti comuni. È possibile in questo caso da parte del condominio utilizzare i voucher lavoro per chiamare un'altra persona che sia in grado di fare questi piccoli lavori di sostituzione? Dottoressa De Cia. La manutenzione degli edifici, anche questo rientra tra le tipologie di attività per i quali è possibile ricorrere al lavoro accessorio e con qualsiasi categoria di prestatori. Rimane sempre fermo, non mi stancherò mai di ripeterlo, la necessità di verificare che non si tratti di un altro tipo di attività, ovviamente, quindi deve essere un'attività veramente occasionale. Quindi sì, è possibile eventualmente ricorrere al buono lavoro per la manutenzione degli edifici. Facciamo il caso specifico, ad esempio l'elettricista che viene di solito chiamato dal stesso condominio, no, non può essere pagato attraverso il voucher lavoro. No, dovrebbe avere una posizione quantomeno come artigiano se non è dipendente di un'azienda terza. Certo. Buongiorno anche a Valerio dalla provincia di Livorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Io le faccio un esempio specifico per arrivare alla domanda generale. Io ho una spiaggia attrezzata con già dei dipendenti strutturati e occasionalmente avrei bisogno per una o due ore, comunque nei termini già descritti, quindi non oltre 5.000 euro l'anno, non oltre 30 ore l'anno, di una manodopera aggiuntiva. Però il mio consulente del lavoro mi ha detto che Non posso utilizzare i voucher se comunque la persona che voglio assumere può essere ricondotta in altri tipi di contratti. Lui mi faceva l'esempio del contratto a chiamata. E niente, quindi volevo sapere se è vero questo, quindi che devo assumerlo con un contratto a chiamata o posso utilizzare i voucher. E noi giriamo la domanda al consulente del lavoro Rotaporta per sapere invece la sua opinione in proposito. Beh, come abbiamo già ribadito in merito agli altri quesiti, bisogna prestare molta attenzione a come si svolge il rapporto di lavoro nello specifico, quindi se effettivamente questa persona che deve essere chiamata è di fatto riconducibile a una prestazione ad esempio di lavoro subordinato, quindi è soggetta a un potere direzionale, è comunque soggetta pur nella limitatezza dell'impegno, ma comunque a un orario di lavoro predefinito, anche se limitato nel tempo e quindi per dire solo qualche giorno, solo alcuni giorni alla settimana. Ad esempio in quel caso lì, come appunto è stato suggerito dal collega consulente, sì, c'è la possibilità del contratto di lavoro a chiamata, però il contratto di lavoro a chiamata differisce dall'applicazione del voucher proprio perché è un contratto di lavoro a tutti gli effetti, quindi c'è una paga, una retribuzione contrattuale, c'è un'intesa comunque anche sulle modalità della chiamata, quindi indennità di disponibilità o meno, quindi ci sono delle caratteristiche che lo fanno differire comunque dal lavoro occasionale accessorio che ha appunto le peculiarità di essere discontinuo, di essere saltuario e proprio come dice il termine stesso accessorio, quindi deve valutare il datore di lavoro nello specifico se effettivamente ricorrono quei presupposti che obbligano a ricondurlo a un rapporto di lavoro subordinato oppure può rientrare nell'alveo del lavoro occasionale accessorio. Va valutato con molta attenzione l'aspetto proprio di svolgimento, proprio fattuale del rapporto di lavoro. Ci fermiamo per qualche istante perché dobbiamo dare la linea agli aggiornamenti per chi è in viaggio, ma restate con noi. Furio dalla provincia di Cremona, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Ci dica. Sono subentrato sulla trasmissione un po' in ritardo, però avevo bisogno di informazione. Noi vogliamo sapere se questi voucher sono applicabili per una ragazza studentessa universitaria che si dovrà laureare, diciamo, quest'estate e che alla fine dell'estate e ne approfittava per andare a fare un'esperienza di lavoro con noi in Islanda per questi 3 mesi, dove avrà il compito semplicemente, quando arrivano delle persone a consegnare dei fuoristrada, ritirarli all'aeroporto e riconsegnarli all'aeroporto. Ecco, non sarà una prestazione che impegnerà tutto il tempo, perché lei nel frattempo studierà, ma solo in quelle date, in quelle giornate in cui le persone arriveranno, lei potrà fare questo tipo di scambio e di impegno personale. Ecco tutto qua. Allora, dottoressa De Cia, credo che qui ci sia un problema di termini, perché il signor Furio parla di 3 mesi, anche se poi, se ho capito bene, all'interno di questi 3 mesi non tutti i giorni la ragazza sarà impegnata. Forse non ho capito bene, ma si tratta di un'attività che verrà svolta all'estero? All'estero, sì, in Islanda. E credo che dovrebbe essere valutata eventualmente la tipologia di attività direttamente anche con il paese straniero, perché qui ritengo che subentrino delle problematiche diverse rispetto al lavoro accessorio, cioè un'attività lavorativa che viene prestata all'estero. Quindi credo che sia eventualmente da approfondire come problematica, quindi cercare di capire se effettivamente una prestazione di questo tipo può essere remunerata con i voucher in Italia. In Italia. Allora, giro la stessa domanda anche al dottor Rotaporta, anche perché è un caso un po' particolare, quindi potremo forse essere di aiuto anche ad altri. Ma direi che con tranquillità possiamo proprio dire che è esclusa la possibilità di utilizzo, perché comunque sussistono delle regole proprio anche in termini di copertura assicurativa per il personale di impresa italiana che viene mandato a lavorare, seppur anche per brevi periodi, con caratteristiche di saltuarietà all'estero, per cui non è configurabile l'applicazione del voucher con riferimento a un'attività svolta da un'impresa italiana all'estero con un lavoratore seppur discontinuo, quindi non è applicabile in questo caso. Però la domanda di Furio, che chiama in ballo gli studenti universitari, suscita in me un'ulteriore domanda sugli studenti, perché io leggo che gli studenti possono essere fruitori di questi voucher se lavorano nei periodi di vacanza, quindi giugno, luglio, agosto e settembre, dicembre, la settimana di Pasqua, e il sabato e la domenica. Quindi, faccio il caso concreto, dottor Rotaporta, se io chiamo una babysitter il mercoledì sera, non posso pagarla con il voucher? Beh, intanto con riferimento alla categoria degli studenti bisogna distinguere due casi. Quello che ha fatto lei con riferimento agli iscritti a un ciclo di studi scolastico di ogni ordine e grado, sì. e lì bisogna rispettare i periodi che lei ha riferito relativamente alle vacanze, sì. e quant'altro. Diverso il discorso ad esempio per gli studenti universitari, quindi già ci sono due distinzioni da fare. Comunque sia, se il riferimento soggettivo è dei giovani con meno di 25 anni e quindi con correlazione alle vacanze, io non posso impiegarli in altre attività, ecco. Quindi in altre attività in diversi periodi dell'anno, quindi che non siano quelli individuati dalla norma con riferimento alle vacanze. Alle vacanze. Sì. Quindi sostanzialmente, se la chiamo in mezzo alla settimana, non posso pagarla con il voucher. Se posso aggiungere detto in termini proprio chiari. Sì. Se posso ancora aggiungere una nota, in questi casi qui dove è importante il requisito soggettivo del prestatore, conviene, è opportuno che il committente si faccia rilasciare un'autocertificazione dello status in cui si trova il prestatore, quindi se è un giovane frequentante cicli scolastici, se è un disoccupato, perché poi in caso di controlli o problematiche è una dichiarazione di responsabilità che comunque può liberare il prestatore dall'aver verificato che quella tipologia soggettiva poteva rientrare nell'applicazione del voucher. Certo, certo. Marilana da Frosinone, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Senta, io ho un frantoio, quindi un lavoro stagionale. che a volte può durare 3 mesi, a volte può durare 4, a volte può durare 1 mese, dipende da quanta merce è. Se non ci sono calamità naturali che non fanno venire questa merce, siamo legati al tempo, per cui varia da 1 mese a 3 mesi. E volevo sapere se potevo usufruire di questo tipo di strumento, sì. Dottoressa Decia, anche qui dirimente la questione tempo. Sì, certo, quello purtroppo è sempre un limite per il ricorso al lavoro accessorio. Il fattore tempo è comunque determinante, perché viene meno quello che è il presupposto fondamentale dell'occasionalità della prestazione, diventa un contratto a termine eventualmente. Certo. E va poi verificata anche la modalità concreta dello svolgimento dell'attività lavorativa, perché non va dimenticato che il lavoratore occasionale è e rimane comunque una tipologia di lavoratore che non è subordinato, quindi non dovrà essere soggetto a limiti di tempo e quant'altro. Quindi anche l'inserire il lavoratore in una realtà produttiva. Certo. Deve essere verificata attentamente la modalità di svolgimento del rapporto poi in concreto. Questo per evitare eventuali anche ripercussioni future da parte del lavoratore stesso, che potrebbe in ogni caso eccepire la nullità del rapporto occasionale a favore magari di un rapporto di lavoro di altra natura. Come sempre, quando trattiamo temi così concreti, il tempo vola via molto velocemente. Ci sarebbero ancora altri messaggi a cui rispondere, soprattutto altre questioni, perché ad esempio quella delle sanzioni non siamo riusciti a toccarla. Io ringrazio Maria Luisa Decia, presidente della Commissione Lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, e ringrazio il dottor Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro, per essere stati con noi. Ringrazio in redazione Gaia Romani, in regia Roberto Scaltritti. L'appuntamento con Salva Danaio rinnovato per domani. Arrivederci.